4, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono un oppositore del PDL e quindi necessariamente di Berlusconi. Nessuna medaglia a Tartaglia, però, anche perché a conti fatti il fattaccio causato dall'instabile Tartaglia si è rivelato, politicamente parlando, una sorta di manna dal cielo. Peccato per il povero Berlusconi che a volte i segnali divini siano anche dolorosi. Una sorta di contrappasso per i peccati compiuti? Una nomina a cavaliere templare a difesa del cristianesimo un po' energica invece del buffetto o la statuina? Chissà. Quindi smettiamola di parlare di odio. Opporsi al PDL e quindi a Berlusconi vuole anche dire evidenziare il personaggio Berlusconi. Spiegatemi però perché dovrei essere fiero di un presidente del Consiglio che, oltre a essere fautore di una politica che io non condivido, dai processi celebrati risulta avere commesso lui medesimo o chi per lui uno stuolo di reati senza fine. E nonostante ciò, il perseguitato è lui. Qui, craxi docet. Risulta avere avuto contatti con esponenti della mafia. Esige tutti i privilegi del proprio ruolo istituzionale, ma non sente alcuna necessità di sopportarne anche gli oneri che inevitabilmente ne conseguono. Si procura leggi personali per sottrarsi al giudizio a cui tutti i cittadini devono, se chiamati, sottoporsi. È vero, gli insulti li riceve, ma quanti ne fa? E tante altre cose che ora non mi dilungo ad elencare. Con Berlusconi è inevitabile che la politica diventi rissa, perché ci si trova a condurre in quell'alveo situazioni che nulla vi hanno a che fare. Se Berlusconi non torna a fare l'imprenditore, sarà la prova provata che la democrazia italiana, lo Stato italiano, sono stati raggirati dal cittadino Berlusconi, in quanto gli anticorpi pensati a tutela delle istituzioni hanno efficacia verso gli attacchi esterni e non verso quelli che provengono dal suo interno. Allora i costituenti non potevano prevederlo un fenomeno come Berlusconi, perché non c'erano le TV e il popolo italiano era profondamente diverso ed era impensabile che un solo cittadino tenesse in scacco l'intera politica italiana, per quanto malmessa che fosse. Io Berlusconi non lo odio, ma lo temo. E come se lo temo? Capisco la necessità del dialogo politico, ma farlo con lui alle condizioni che vengono richieste significherebbe sancire tutto quanto sopra ho esposto e anche di più. Che tristezza imparare a stare al mondo in questo mondo. Saluti e buon Natale. Fabio. Dopo la vicenda di Piazza Duomo, fuoriescono baldanzose l'imbecillità e l'ignoranza, soprattutto nella non conoscenza della storia di questo paese. Ormai gli oppositori ottusi di Berlusconi sono diventati una setta. Sragionano e appena D'Avanzo, Travaglio, Santoro o Di Pietro danno loro la linea, ecco che i seguaci si abbeverano, come noi comunisti quando Guareschi ci dava dei trinariciuti. A differenza di quelle sette religiose che bussano e gentilmente vogliono parlarti per convincerti, che le puoi ascoltare se vuoi oppure puoi far loro capire che non ti interessa e se ne vanno gentilmente, questi si incavolano perché non la pensiamo come loro. Non capiscono perché gli altri possono pensarla diversamente. Diventiamo allora dei nemici, non degli avversari politici, ma nemici, fascisti, generali sudamericani. Tengono un comportamento da fascisti. E da fascista è il comportamento di Di Pietro, che con la sinistra non c'entra un bel niente. Aveva ragione Bondi nel dire che la situazione non migliorerà. Io non la vedo bene, mi dispiace, ma succederà, visto che Berlusconi adesso dovrà stare più coperto e sicuramente questa volta, se qualcuno tentasse colpi pericolosi, la polizia avrà il diritto di intervenire e non con il manganello. Negli Stati Uniti tirano con la pistola. Roberto. Trovo che quello che Travaglio dice sia frutto di indagini, riscontri e realtà, e io apprezzo le informazioni che lui scrive o dice. È chiaro che i destinatari dei suoi articoli possono anche irritarsi, ma questo fa parte dei sentimenti, e potrei concludere che la verità fa incazzare. Ho notato con molto piacere che gli ascoltatori che sostengono Travaglio sono ben più di coloro che lo contestano. Questo può essere dovuto al fatto che fra i vostri ascoltatori che intervengono ve ne siano tanti di sinistra? Parlavate dei suoi monologhi e dell'assenza di dibattito. Potrei dire che è lo stesso metodo usato dal capo della parte avversa e da tanti altri politici. Quelle di un giornalista sono informazioni che per lettera o altri mezzi chiunque può contestare. Quelle dei politici sono dictatum e decisioni prese a nostre spese. Agostino. A proposito di Bersani e delle sue giravolte sul nucleare, che oggi sembra non gradire più, posso citare a titolo esemplificativo un'uscita che fece da ministro nel 2007. Al Corriere della Sera, il 14 settembre, disse che bisognava studiare impianti di nuova generazione. Poi, all'Amica Repubblica, il 15 settembre dello stesso anno, rilasciò un'intervista dal titolo «Bersani, nucleare tra 20 anni, basta veti». E ancora, sempre sul giornale di Ezio Mauro, «Non rinunciamo alla ricerca sul nucleare. Nel futuro nasceranno impianti più piccoli e senza problemi di scorie. Perché rinunciarvi da ora?» Sembrava Berlusconi. Sembrava. Marco. Egregio signor direttore, ho sentito la lettura di molte lettere alla radio sulla vicenda della nevicata di lunedì. Ho letto articoli sui giornali a cui ho accesso, cartacei e online. Ho visto qualche servizio di telegiornale. Ho trovato molto buon senso. In qualche caso la contrapposizione tra i molti diritti propri e i molti doveri altrui. Quasi mai, anzi forse mai il contrario. Sono stato una vittima della nevicata. Per lavoro sono partito da Dalmine per Cologno Nord alle 16.30 per portare dei lavoratori e sono uscito a Trezzo sull'Adda della A4 alle 22 al rientro. Penso che nella serata di lunedì ci sarà stato chi ha dato il meglio di sé con abnegazione, cercando di fare del proprio meglio, e chi avrà cercato di imboscarsi indifferente alla difficoltà delle persone in movimento. Come pure tra i viaggiatori non saranno mancati gli episodi che avranno contribuito a peggiorare la situazione. Mi chiedo, dopo questa prova, si farà un'analisi che consentirà di capire dove sono emersi i punti deboli? Non intendo le grosse scelte strategiche che prevedono ingenti investimenti e tempi lunghi di realizzazione e infine battaglie pro e contro. Penso alle cose banali. Come banali sono le situazioni che possono migliorare o peggiorare, non dico la nostra vita, ma almeno la nostra serata. Insomma, creare un database nel quale si scrivano le procedure per risolvere o evitare, nel possibile, le criticità. Penso a 3 suggerimenti banalissimi. I caselli autostradali in questi momenti dovrebbero essere tutti abilitati al telepass, soprattutto nelle barriere. La coda al casello telepass, servizio pagato, è più lunga e penalizzante di quella a biglietto. Ci si sente un po' presi in giro, vista anche la pubblicità televisiva del telepass. In missione da Tangenziale Est verso Venezia. Lunedì la fila è stata ferma per circa 90 minuti. Arrivato in autostrada si è visto che la fila di uscita al casello di Agrate poco avanti intersecava la nostra creando ingorghi. Una pattuglia della Polstrada che facesse alternare il traffico delle 2 file avrebbe, credo, diminuito di molto il problema. Infine, quando si formano lunghe file ai caselli in uscita, i furbi stanno in corsia fino all'ultimo per poi cercare un pertugio per infilarsi nella coda in uscita, molte volte frenando e rimanendo in corsia di marcia. Questo provoca un rallentamento che per l'effetto domino, in situazioni precarie come quelle di lunedì, può provocare un blocco qualche chilometro più indietro. La presenza di forze dell'ordine che non consentano questo e facciano defluire meglio il traffico ai caselli, ritorniamo alla diffusione del casello Telepass, forse attenuerebbe anche questo problema. Mi sono permesso di elencare queste 3 banalità perché penso che se si raccogliessero suggerimenti come questi, di vita vissuta, che i coordinatori delle unità di crisi non possono conoscere dettagliatamente, e si programmassero le contromisure, ciascun addetto sa cosa fare nel momento in cui serve, senza improvvisazioni inutili, non eviteremo i problemi che l'oggettività della situazione e le deficienze strutturali del sistema ci provocano in condizioni la cui soglia di criticità si abbassa costantemente. Ma forse ci farebbe risparmiare qualche ora di disagio. Roberto, Trezzo sull'Adda. Scrivo a proposito delle nevicate di questi giorni. Nel tragitto da me percorso, circa 17 km in 5 ore e mezza, ho incrociato nel tratto tra Carugate e Cernusco 2 spazzaneve con la pala alzata e che quindi non spazzavano neve. Le condizioni delle strade erano quelle di un percorso completamente vergine da qualsivoglia ripulita da parte degli spazzaneve. Il livello della neve sul tracciato era di poco più basso rispetto a quello sui bordi e mancava platealmente il mucchietto di neve sporca che lascia lo spazzaneve ai lati. È stato talmente evidente il disservizio che da una posizione totalmente neutra dal punto di vista politico arrivo persino ad ipotizzare che i dipendenti del comune, o comunque gli incaricati del servizio, abbiano di proposito boicottato lo stesso per mettere in difficoltà l'amministrazione. Molto più probabilmente è l'amministrazione comunale che è incapace a 360 gradi. Per non parlare poi delle palesi menzogne del vice sindaco che sbraitava come fosse colpa dei cittadini che vivono fuori Milano e che si ostinano ad utilizzare la propria auto. Vorrei concludere infine facendo una domanda al radioascoltatore che ha detto che le strade erano percorribilissime e che il tutto era dovuto all'imperizia di chi non ha mai seguito un corso di guida su terreno viscido. È da una ventina d'anni che ho la patente e non ricordo che questa specialità rientrasse nelle pratiche o nella teoria dei normali corsi. Altri paesi europei hanno avuto difficoltà peggiori della nostra e con molta più neve. Qualcuno ha detto che a Parigi, Francoforte, Londra, gli aeroporti erano chiusi. Chiunque abbia visto un aereo in vita sua capisce da solo che il livello di sicurezza minimo che si deve garantire ad un velivolo per atterrare e decollare è ben diverso da quello sufficiente per il traffico su gomma per circolare. Sono caduti circa 20 centimetri di neve. Non sono pochi, certo, ma se non si spazzano è come se fossero 40. Non facciamo un favore al nostro paese o alla nostra regione dicendo che va tutto bene, che comunque la cosa non avrebbe avuto altre evoluzioni possibili e che gli altri hanno fatto peggio di noi, tutto da dimostrare in ogni caso. Mal comune mezzo gaudio, consolazione di tutti o degli stupidi, più probabilmente. Rossana. Di fronte alla situazione disastrosa dei trasporti ferroviari di questi giorni, l'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, ha consigliato ai passeggeri di munirsi di coperte, acqua e panini prima di affrontare un viaggio in treno. Ma il direttore Moretti, se va in aereo in queste giornate, si premunisce portandosi un paracadute, generi di conforto, acqua, copertina e quant'altro? O si aspetta che la sua linea di aerei gli dia un'adeguata assistenza? Paolo. Non so bene come faccia il vostro radioascoltatore che ha detto di solidarizzare con Moretti. Passi il buon senso delle dichiarazioni di lunedì sulle coperte e i panini. Io vorrei far notare che la mia fidanzata, in stazione centrale a Milano dalle 11.35, è riuscita a fare un biglietto alle 13.15 e a partire per Venezia alle 18 con il treno delle 14.35, ora disperso a Treviglio. Da Milano per Venezia Trieste sono partiti 4 treni in tutto il giorno. Forse un po' pochini per elogiare e solidarizzare. All'estero va peggio? E chi se ne frega? Io non pago tasse e biglietti all'estero. Francesco. A proposito di treni, ho letto che in Finlandia i ritardi dei treni dovuti a neve sono al massimo 5 minuti per 3 giorni all'anno. Provo ad immaginare che potrebbero fare i treni finlandesi in estate. A parte la neve, anche con il sole in Italia non mi sembra che le cose cambino molto. Panini e coperte comprese. Fabio. Vorrei intervenire sul tema maltempo e treni nel caos. Non voglio infierire sul povero dottor Moretti, ma contrariamente a quanto da lui dichiarato, la situazione è di caos completo. Il servizio clienti di Trenitalia, il numero 892021 che ti tiene in attesa per decine di minuti a 30 centesimi alla risposta e 50 centesimi al minuto. Operatori del numero verde che al più ti consigliano di non partire, ma non possono dare risposte certe, eccetera. Mi chiedo, posto che le nevicate sono eventi naturali e in qualche misura prevedibili, a 48 ore dall'evento un manager, presumo con stipendio adeguato, può ancora trincerarsi dietro al «portatevi la coperta». E ancora, dato che i biglietti sono stati venduti allo stesso prezzo per un servizio quantomeno discutibile, gli stipendi dei manager che non fanno il proprio lavoro vengono decurtati proporzionalmente al disservizio al quale non hanno saputo trovare rimedio? Carmine. Caro direttore, l'anno che si sta chiudendo sarà ricordato come uno dei più difficili per l'economia. Ma da come ci si sta muovendo, mi pare che la crisi non abbia insegnato nulla e si stia andando verso nuovi pericoli di instabilità. Non sarebbe allora il caso di limitare molto più drasticamente l'attività dei mercati finanziari, proibendo una volta per tutte la possibilità di speculare sui titoli, sulle materie prime e sulle monete? Felice. Caro Felice, il suo progetto è molto ambizioso. Proibire la speculazione sarebbe come chiudere le autostrade per evitare gli incidenti. Il risultato sarebbe sicuro, ma le conseguenze sarebbero ben più gravi sugli altri fronti. La speculazione non è di per sé una malattia, almeno entro certi limiti. Sui mercati finanziari la speculazione è quello che almeno in parte offre attrattività e possibilità di guadagno. E peraltro, chi partecipa al gioco dovrebbe sapere perfettamente che sta correndo dei rischi. Diverso è il caso delle materie prime, in particolare del petrolio. Su questo fronte sono d'accordo, sarebbe necessario evitare il più possibile che i prezzi di mercato siano influenzati da fattori completamente estranei alla legge della domanda e dell'offerta. Lo scorso anno, poco prima della grande gelata della crisi, il petrolio aveva toccato un prezzo al di fuori di ogni logica economica e reale. E se fossero continuati quei livelli, le conseguenze per tutte le economie, sviluppate e in via di sviluppo, sarebbero state particolarmente pesanti in una situazione già difficile e complessa. È interesse di tutti, invece, che i mercati si sviluppino con equilibrio ed efficienza. Certo, su questo fronte le regole non sono facili, ma questo non vuol dire che non siano necessarie. In questi giorni mi frulla in testa il motivetto pubblicitario «A Natale puoi fare tutto quel che non puoi fare mai». La melodia è orecchiabile, ma l'autore del testo avrà ricevuto un compenso per aver scritto tale baggianata? Cosa puoi fare a Natale? Quello che vuoi? Provo a cantare come la penso. A Natale devi fare tutto quello che gli altri si aspettano da te. Sì, perché con la fregatura dell'essere più buoni, Natale è diventata la festa dell'ipocrisia. Fare il regalo obbligato, fingere di apprezzare quello riciclato, accettare un invito che declineresti volentieri, condividere pranzi e cene con parenti altrimenti inesistenti, a volte prepotenti, se non addirittura serpenti. Il 25 dicembre è un giorno come gli altri, facciamo solo finta di essere diversi. Il 26 dicembre torniamo a come eravamo il 24 dicembre. Natale è solo l'intervallo tra i due tempi del film, il film che si gira ogni anno della nostra vita. Se a Pasqua si celebra il sacrificio di Gesù, a Natale si celebra il nostro sacrificio. Ci viene chiesto di portare un pesante fardello contenente troppo cibo, troppi regali, troppo consumismo, troppi ingorghi, per non parlare delle scenate del consorte stressato, della gaffa del regalo dimenticato, di quello schifoso vin brûlé della Croce Rossa e delle recite scolastiche da morire tutti asfissiati. E noi lo portiamo, questo fardello, per il bene dei bambini, perché è la loro festa, senza pensare che forse tutto questo troppo ai nostri bambini non fa neanche tanto bene. Silvia. Al tempo della bicamerale, Massimo D'Alema, in un discorso, sostenne che anche un sistema presidenziale sarebbe potuto andare bene, purché con gli adeguati contrappesi istituzionali. Anzi, aggiunse che andando verso un federalismo di sostanza, il potere dell'esecutivo sarebbe dovuto mutare in senso di un accrescimento. La mia impressione è che Massimo avrebbe sicuro piacere a cogliere il frutto di un sistema previdenziale conquistato da un Silvio ormai stanco e vecchio. In breve, Massimo sta facendo combattere Silvio per un risultato che solo lui, nel centro-sinistra, potrebbe cogliere. Massimo sa che solo una personalità come Silvio potrebbe ottenere un tale mutamento istituzionale. Ma sa anche che Silvio non è più tanto giovane e che dopo di lui nel PDL non c'è nessuno in grado di ottenere un consenso tale da arrivare a quella sedia. Per la Lega, poi, zero assoluto. Massimo è furbo. Fa combattere a un altro una battaglia impossibile per lui. Sa che l'uomo scompare. L'istituto previdenziale no. Giorgio. Sono tra quelli che votarono al referendum per l'abolizione della quota proporzionale. Se allora si fosse raggiunto il quorum, adesso vivremmo in una democrazia un po' più compiuta. Se avessimo l'uninominale secca, ogni candidato dovrebbe metterci la sua faccia. I vari Cicchitto, La Torre, Buttiglione o Di Pietro, se la giocherebbero nel loro collegio elettorale, potrebbero essere eletti solo prendendo un voto più degli altri candidati, come accade negli Stati Uniti. E ai loro elettori dovrebbero rispondere durante la legislatura. Per questo a collegi più piccoli e numerosi corrisponderebbe un maggiore legame col territorio. Quindi un numero maggiore di parlamentari sarebbe una garanzia di una rappresentatività. E sarebbe anche utile, penso, aumentargli lo stipendio in modo da attirare alla cosa pubblica le persone migliori. Questo modello piacerebbe molto agli italiani. Si vede il successo dell'elezione diretta dei sindaci. E non piacerebbe per nulla ai partiti, che perderebbero la loro stessa ragion d'essere attuale, trasformandosi da centri di potere elitario a veicoli di rappresentanza. Gianfranco. Il punto non è se i partiti debbano avere o meno fondi statali. È ovvio che la politica abbia un costo, però quello che sconcerta sono i mezzucci escogitati per prendere sempre più soldi, anche senza avere i requisiti, non dico di legge, perché quelli sono fissati dagli stessi esponenti dei partiti, ma quelli di buon senso. Perché un partito non eletto dovrebbe essere aiutato a vivere? Per logica dovrebbe confluire in un altro partito o cessare di esistere. È giusto aiutare i partiti, ma con una trasparenza assoluta e senza leggi o leggine ad hoc. Patrizia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.